Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Attenzione! Avvisiamo che i treni da e per Fiumicino aeroporto subiranno ritardi di 40 minuti o variazioni per un furto di cavi di rame sulla linea tra... Lo rubano alle ferrovie, nelle centrali elettriche e telefoniche, bloccando treni o spegnendo interi quartieri, ma lo portano via anche da ospedali e perfino cimiteri. I ladri di rame non di rado perdono la vita mentre cercano di staccare fili, tubi o grondaie. Con l'impennata del suo valore, infatti, la caccia all'oro rosso è sempre più il nuovo business criminale, passato dal piccolo furto all'assalto ai grandi camion. Le aziende si mobilitano e da un lato, come Storiacce è in grado di anticiparvi, chiedono l'introduzione di un reato ad hoc, un furto aggravato che aumenti le pene viste le conseguenze provocate. Dall'altra, le imprese di settore sono pronti ad espellere dalle proprie associazioni chi non denuncia i casi di riciclaggio. Improvvisamente i respiratori sono andati tutti quanti in allarme, i manometri che portano l'ossigeno erano tutti azzerati contemporaneamente. C'è stato un grande sgomento con le bombole, i palloni autoespansibili sono riusciti a ventilare tutti i pazienti. Se poi ci fosse stata una scintilla, allora sì che succedeva una tragedia di dimensioni epiche. Il 31 marzo a Bari, all'ospedale di Venere di Carbonara, un furto di rame ha fatto sfiorare la strage, dice senza mezzi termini Riccardo Pagliarulo, direttore della rianimazione. Ora un lucchetto più grande e più nuovo ripara quei tubi che portano l'ossigeno ai malati, ma la situazione non è cambiata del tutto, ammette il primario. E qui, come in tutta Italia, con i furti di rame si convive in un certo senso, visto che è di nuovo boom. Il 3 febbraio 2011 a Londra l'oro rosso ha toccato il nuovo record, $10,000 la tonnellata. Già da tempo però i furti erano tornati ai livelli del 2006, quando solo alle ferrovie dello Stato, le più colpite, erano state rubate 1.223 tonnellate. Nei primi quattro mesi del 2011 ci sono stati già 544 furti che hanno coinvolto 1.664 treni per oltre 30.000 minuti di ritardo, calcolano le FS. Il rame è diventato come un bancomat, riflette Franco Fiumara, direttore protezione aziendale delle ferrovie, che prima di tutto assicura nessun rischio per la sicurezza. La sicurezza con i furti rame non c'entra nulla, c'entra la regolarità dell'esercizio. Sono quegli cavi più evidenti che non possono essere nascosti, trovano a terra, si produce un blocco, si producono ritardi conseguenti. Spesso i blocchi si verificano nel momento di fascia pendolare. Ci siamo trovati con anche 90 treni fermi. Quando i ladri non sono particolarmente esperti, tagliano anche altri cavi. Non più tardi di 6-7 mesi fa, numerosissime stazioni del nodo di Roma rimasero improvvisamente al buio. Io ho definito alcuni pezzi di ferrovia bancomat di rame. Dei bancomat di rame, dunque, costati tra il 2005 e il 2010 22 milioni di euro di danni, oltre ai costi dei disagi a catena. Ed è per questo, con tutto ciò che un blocco dei treni può provocare, che le ferrovie, insieme a Telecom, Enel, Acea, riunite insieme alle forze dell'ordine e alla Criminal Pol, proprio per la questione rame, vogliono portare avanti una richiesta precisa al legislatore, un'aggravante specifica al furto, così da aumentare le pene e fare da deterrente. Chi va a rubare rame in genere è il tossicomane, il disagiato sociale, il nomade, anche qualche pensionato. È un reato punito come tanti altri furti, mentre va a impattare sull'infrastruttura critica principale per la mobilità del paese. Pensate anche in questo tavolo di suggerire una strada anche di tipo normativo, quindi che funzioni come deterrente? Sì, è una delle ipotesi più interessanti. Oltretutto, i danni economici che si procurano sono facilmente verificabili per quanto riguarda, ad esempio, ferrovie o Enel o Telecom, ma non sono stimabili in termini di costo sociale. Si bloccano dei treni, c'è gente che non va al lavoro o arriva tardi. Tra la tanta gente ferma c'è qualcuno che si innervosisce e ci sono poi aggressioni, minacce verbali. E quindi come potrebbe essere un furto aggravato? Un'aggravante specifica, visto che viene a produrre i suoi effetti su un'infrastruttura critica. Sono zone del paese che improvvisamente gente rimangono senza elettricità a causa dei furti di rame. Ma voi avete cominciato a prendere, diciamo così, delle precauzioni, ad esempio la sostituzione del rame con l'alluminio è in alluminio alcuni e punti acciaio, sì, leghe di alluminio e acciaio. È già cominciata laddove è stato possibile approvvigionarsi, riguarda più la parte manutentiva. Noi abbiamo anche furti in deposito, investono anche tonnellate di merce. Fili rubati, treni bloccati. 2 anni fa i furti di rami delle ferrovie erano crollati fino a 349 tonnellate, registra la polizia ferroviaria, che per rintracciare i ladri di rame cercava la merce dai ricettatori. Operazione possibile vista la riconoscibilità del materiale dell'FS. Ma poi i cacciatori di oro rosso si sono attrezzati e i furti sono ricominciati, come racconta Pietro Milone, direttore della seconda divisione della Polfer. Il passo ulteriore che il ricettatore ha fatto è stato quello di modificare proprio strutturalmente il cavo di rame in modo tale che non è più riconoscibile. Nel 2010 siamo tornati sui livelli del 2006, siamo intorno alle 1220 tonnellate. Le vostre indagini che tipo di scenario vi hanno dato? Mi sento di dire che si possa escludere la criminalità organizzata. Nel 2006 noi facemmo un ingentissimo sequestro, parliamo di oltre 20 tonnellate di rame in containers che si trovavano al porto di Gioia Tauro. Abbiamo pensato che sotto ci potesse essere qualche famiglia di qualche organizzazione criminale. In realtà dalle indagini non è emerso nulla di tutto ciò. Bande organizzate sicuramente ci sono e ne abbiamo anche sgominate diverse. Di che tipo sono? Di che nazionalità sono? Come operano e dove? Sono di tutto. Le nazionalità, italiani compresi, sicuramente rumeni e moldavi in questo momento rappresentano la maggioranza. Si è rubato di più al nord o al sud? Siamo in leggero vantaggio al nord. Il rame rubato come passa di mano, dove finisce? Ladro, ricettatore, grande esportatore, navi verso la Cina. Il rame nostro delle ferrovie viene ripulito semplicemente levando la guaina, certo altre aziende non hanno nemmeno dei cavi esclusivi. Io opero in un'azienda che è la Trezzavizio S.p.A. di Orvieto. Abbiamo avuto un furto di un viaggio di carro di rame l'anno scorso. C'è stato anche il sequestro dell'autista. L'autista si era fermato in una piazzola di sosta. È stato seguito sicuramente dalla partenza. Sono entrati in 3 dentro la sua cabina. L'hanno stordito. Il giorno seguente è stato ritrovato l'autista malmenato. È sparito praticamente il rimorchio e il contenuto del rimorchio. Ha subito un danno da 240.000 euro l'azienda di Carmelo Paolucci, che come molte altre ha avuto un proprio camion assalito durante il trasporto di rame. Ora fruttano più delle rapine in banca, denuncia il dirigente Polfer Milone. Non ci trovo nessuna differenza tra un assalto a un furgone portavalori e un assalto a un camion che trasporta rame. Addirittura le rapine in banca non rendono mai più di 15-20.000 euro. Se io assalgo un camion che mi porta 2 tonnellate di rame, a 6-7 euro al chilo si faccia 2 conti, sicuramente è una cosa che va pianificata. Questo ci potrebbe far pensare ad un salto di qualità. È evidente. Anche Milone ha partecipato alla firma con la Assofermet, l'associazione delle aziende operanti nel recupero dei rottami ferrosi e non. 1000 imprese che riciclano 16 milioni di rottame e che ora, per cercare di ridurre i furti di rame, sono pronte a colpire chi ne approfitta anche al loro interno. Vogliamo espellere chi non denuncia i casi di ricettazione, anticipa a Storiacce Romano Pezzotti, presidente Assofermet Rottami. Ruba per guadagnarsi i 300-500 euro. Questi si rivolgono a dei piccoli commercianti o ambulanti di rottame, i quali si prestano sotto la figura di un privato ad acquistare questi quantitativi di rame. Ma il rumeno che tutti i giorni va da un piccolo commerciante e gli vende 100-200 kg di rame che ha rubato la notte, questo non è un privato, questo è un ladro che va a vendere la sua refurtiva, e quello che acquista non acquista un privato ma fa una vera e propria ricettazione. Il furto di livello è il furto di quantitativi importanti. Per bonificare, tra virgolette, fiscalmente un carico intero di rame ci vuole una fattura falsa. Certo. Quindi ci sono quelle famose cartiere che emettono delle fatture false. Sui nostri associati ci sono 2, 3, 4 furti la settimana. Viene reimmesso nel circuito del mercato lecito grazie ad una fattura falsa. È sempre la stessa entità che con la mano destra ruba e con la mano sinistra fa una fattura falsa per vendere, poi butta via, non fanno dichiarazione ai redditi. Nel bresciano di queste cose ne abbiamo viste tantissime, perché è il cuore della metallurgia italiana, come un po' una volta quando rubavano le automobili, no? Ecco, che cosa servirebbe? Guardi, per quanto riguarda i piccoli furti bisogna monitorare attentamente quegli ambulanti o quei punti di raccolta che danno la possibilità al rumeno di andare a vendere il suo quintale di rame e prendersi i suoi 300 o 400 euro. Per quanto riguarda i grandi furti, noi abbiamo segnalato che, come è stato fatto in Confindustria con la mafia, noi siamo disponibili, l'associato che eventualmente si presta a ricettare questo materiale, una volta giudicato e condannato a essere espulso dall'associazione. Cioè, quindi, come è avvenuto per chi paga il pizzo e non denuncia, voi siete pronti ad espellere dalla vostra associazione chi si presta a ricettare rame rubato e non lo segnala. Il nostro è un deterrente per far sì che a nessuno venga voglia di prestarsi ad acquistare della roba strana. È successo qualche volta anche da me che si sono presentati dei personaggi strani dicendomi: oh, del rame o delle bobine. Ho detto: bene, bolla, formulario di identificazione del rifiuto. No, io non c'ho formulario, però ti firmo ricevuta da privato. Il sistema è: ti firmo ricevuta da privato. Dietro la figura del privato si nascondono i ladri di piccoli quantitativi di metallo. E mentre ciascuno, come può, corre ai ripari, sostituendo il rame con altre leghe, chiedendo pene più dure o colpendo le connivenze di chi ricicla, ogni giorno la caccia all'oro rosso registra nuovi picchi, come quelli del rame nelle piazze internazionali. Potete riascoltare o scaricare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, sul sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato prossimo!